ad alta voce. Ignazio Oliva legge L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf. Traduzione di Ada Maria Terziani. La fuga. Otto giorni dopo il ritorno, Clara Gulla e la madre si trovavano una mattina al pontile di Borg, pronti a partirsene per sempre. La vecchia Katrina indossava un cappello e un magnifico cappotto. Avrebbe seguito la figlia a Malmo e sarebbe diventata una distinta signora di città. Mai più avrebbe avuto bisogno di sfacchinare dal mattino alla sera per procurarsi di che vivere. D'ora in poi avrebbe potuto starsene con le mani in mano seduta sul sofà e passare tranquillamente e senza preoccupazioni i giorni che le rimanevano. Ma nonostante tutte le belle cose che l'attendevano, Katrina non si era mai sentita così miseramente infelice come quel mattino sul pontile. Clara Gulla si era evidentemente accorta di qualcosa, perché cominciò a domandare se avesse paura della traversata, e si mise a rassicurarla che non c'era alcun pericolo, anche se soffiava un tal vento che la gente poteva malapena stare sul pontile. E sapeva quel che diceva. «Queste non sono neanche onde», diceva la madre. «Vedo bene le creste bianche, ma non avrei nessuna paura di attraversare, neppure con la nostra vecchia barca a remi». Senza curarsi della burrasca, Clara Gulla rimase sul pontile. Katrina, invece, per non farsi sferzare dal vento, si rifugiò nel grande magazzino delle merci, infilandosi in un angolo buio, dietro qualche cassa da imballaggio. Intendeva restarvi fino all'arrivo del vaporetto, perché preferiva non incontrare nessuno del circondario prima di mettersi in viaggio. Ma al tempo stesso rifletteva che certo non era giusto quel che stava facendo, dal momento che si vergognava di mostrarsi davanti alla gente. C'era una sola ragione per la quale poteva assolvere se stessa. Non era per il desiderio di un'esistenza comoda che seguiva Clara Gulla, ma unicamente ed esclusivamente perché le sue mani la tradivano. Che altro avrebbe mai potuto fare quando sentiva che ormai erano ridotte al punto di non riuscire più a filare? Vide entrare nel magazzino il sagrestano Svartlik e pregò a Dio che non dovesse vederla e non si avvicinasse a chiederle dove stava andando. Come avrebbe potuto dirgli che intendeva abbandonare Janne, la casetta e tutte le vecchie cose? Katrina aveva fatto un tentativo per risolvere la situazione in modo da continuare a vivere la casa. Lei e Janne. Se solo Clara Gulla avesse voluto mandare un po' di denaro, magari un biglietto da 10 scudi al mese, avrebbero potuto bene o male cavarsela. Ma non era servita a niente insistere. Su questo la figlia era sorda. Si rifiutava di dar loro un centesimo se Katrina non la seguiva. Katrina capiva bene le ragioni. Clara Gulla non diceva di no per cattiveria, ma ormai aveva preso in affitto alcune stanze e le aveva sistemate per i genitori. Aspettava con gioia il momento in cui avrebbe potuto mostrare ai suoi vecchi quanto aveva pensato a loro e lavorato per loro. E voleva portarne con sé almeno uno, per compensare tutto il da fare che si era data. Certo, era soprattutto a Jan che aveva pensato, preparando la casa. Perché un tempo era il padre che era particolarmente attaccata. Ma ora le sembrava impossibile prenderlo con sé. Era proprio qui la disgrazia. A Clara Gulla era venuta una tale avversione per suo padre. Non poteva addirittura sopportarlo. Non voleva sentirlo parlare né della Portugallia, né del suo regno, né della sua potenza. Poteva a malapena tollerare di vederlo andare in giro vestito con quei paludamenti imperiali. Jan non per questo era meno felice di vederla in ogni modo, e non desiderava altro che starle vicino. Ma lei non faceva che fuggirlo. E Katrina era certa che proprio per non doverlo vedere, la figlia non aveva voluto restare a casa più di una settimana. Adesso anche Clara Gulla era entrata nel magazzino delle merci. Non aveva paura del sacrestano Svartlik, lei. Anzi, gli era andata dritto incontro per parlargli. E fin dalle prime parole gli raccontò che stava tornando a casa e che Katrina l'avrebbe seguita. Il sacrestano chiese allora, come c'era da aspettarsi, che cosa ne pensasse suo padre. E Clara Gulla, con la stessa tranquillità con cui avrebbe parlato di un estraneo, raccontò quel che aveva predisposto per lui. L'aveva messo in pensione da Lisa, la nuora del vecchio delle reti. Dopo la morte di Ul Bengsta, Lisa si era costruita una casa nuova e aveva una camera libera, dove Jan poteva alloggiare. Il sacrestano Svartlik aveva un viso che non lasciava trapelare dalle sue reazioni più di quel che lui volesse, e rimase completamente impassibile mentre parlava con Clara Gulla. Ma Katrina sapeva bene quel che ne pensava, lui che era come un padre per tutto il comune. Perché mai un vecchio che ha in vita moglie e figlia deve aver bisogno di andare da estranei. Lisa è una persona cara, ma certo non potrà mai avere tanta pazienza con lui come i suoi. Questo pensava. E questo aveva ragione di pensare. Katrina si guardò improvvisamente. Forse ingannava se stessa, dando la colpa a loro. La vera ragione per cui abbandonava Jan era che fra le due la figlia era la più forte. Lei si sentiva incapace di opporle resistenza. Clara Gulla era sempre lì a parlare col sacrestano e gli raccontava come avevano dovuto andarsene di casa di nascosto perché Jan non si accorgesse che partivano. Questo era stato il peggio per Katrina. Clara Gulla aveva spedito Jan a fare una commissione in un negozio lontano, fino al comune di Bro, e appena era uscito, avevano fatto le valigie e se n'erano andate. Katrina si era sentita come una ladra e una malfattrice ad andarsene via da casa in quella maniera, ma Clara Gulla aveva detto che non c'era altro da fare. Se il padre avesse saputo del viaggio, si sarebbe sdraiato sotto le ruote del carro piuttosto che lasciarle partire. Già, adesso ci sarebbe stata Lisa ad accoglierlo quando tornava a casa, e avrebbe trovato il modo di consolarlo. Ma era duro pensare al dolore che avrebbe provato Jan venendo a sapere che Clara Gulla era partita. Il sacrestano Svartlik ascoltava in silenzio Clara Gulla. Katrina cominciava quasi a dubitare che approvasse quel che veniva a sapere, quando all'improvviso il sacrestano prese la mano di Clara Gulla e le disse con grande serietà: «Clara Gulla, come tuo vecchio maestro ti dirò francamente quel che penso. Tu stai cercando di sfuggire a un tuo dovere, ma non è neanche detto che ti riesca. Ne ho visti tanti altri che hanno cercato di fare come te, ma alla fine l'hanno pagata cara». Katrina si alzò e trasse un sospiro di sollievo udendo il discorso di Svartlik. Erano proprio le parole che avrebbe voluto dire lei stessa. Clara Gulla rispose pacatamente che non sapeva cos'altro fare. Non poteva mica prendere con sé un pazzo in una città forestiera e neanche rimanere a Svarzio. E di questo, fra l'altro, la colpa era dello stesso Jan. Non poteva passare davanti a una fattoria che saltavano fuori di corsa tutti i bambini gridando «Imperatrice! Imperatrice!». E la domenica in chiesa la gente le si era fatta intorno per vederla con tale frenesia che poco mancò non la buttassero a terra. Il sacrestano insistette comunque sulla sua opinione. «Capisco che può essere penoso, ma c'è stato un tale legame fra te e tuo padre che non devi credere di poterlo recidere così facilmente». Detto questo, uscirono entrambi dal magazzino e Katrina li seguì. Aveva cambiato idea ora, e avrebbe volentieri parlato col sacrestano, ma prima di avvicinarglisi si fermò a guardare verso la salita. Aveva come il presentimento che Jan stesse per arrivare. «Avete paura che venga papà?» chiese Clara Gulla lasciando il sacrestano e andandolo incontro. «Ho paura», esclamò Katrina. «Io prego soltanto il Dio che Jan possa arrivare prima che io sia partita». Raccolse tutto il suo coraggio e proseguì. «Mi sento, sai, come se avessi commesso un crimine. Credo che me ne pentirò per tutta la vita». «Lo dite perché siete stata costretta a vivere nell'oscurità e nella miseria per tanti anni», disse Clara Gulla. «Sarà tutto diverso quando sarete lontana da qui. Ad ogni modo, papà, è proprio impossibile che venga, visto che non sa neanche che siamo partite», soggiunse. «Non esserne così sicura», disse Katrina. «Jan sa sempre quel che deve sapere. È stato così da quando tu sei partita e ogni anno di più. Il Signore avrà certo pensato che, avendo perduto la ragione, doveva avere una nuova luce con la quale illuminarsi». E Katrina raccontò in poche parole a Clara Gulla la morte di Lars Gunnarsson e un paio di altri avvenimenti degli ultimi anni per mostrarle che Jan aveva, come si suol dire, un potere divinatorio. Clara Gulla l'ascoltava con molto interesse. Già in precedenza Katrina aveva cercato di farle sapere quanto Jan era buono con tanti poveri vecchi, ma lei non era neanche stata a sentire. Da quest'ultima notizia invece sembrava così presa che Katrina cominciò a sperare che potesse aver cambiato idea su Jan e magari avrebbe chiesto di tornare a casa anche lei. Ma la speranza ebbe breve durata. «Ecco il battello, mamma!» esclamò Clara Gulla con voce lieta. «Adesso abbiamo almeno la fortuna di poterci mettere in viaggio». A Katrina vennero le lacrime agli occhi quando vide il vaporetto accostarsi al pontile. Avrebbe voluto pregare il sacrestano Svartlik di dire una buona parola in favore suo e di Jan, affinché Clara Gulla li lasciasse rimanere nella loro vecchia casa. Ma non c'era più il tempo. Non trovava nessun espediente per sottrarsi al viaggio. Il battello doveva essere in ritardo, vista la gran fretta che aveva di ripartire, al punto da non tirar fuori neanche la passerella. Alcuni poveri passeggeri che dovevano sbarcare furono quasi gettati di peso sul pontile dai marinai. Clara Gulla tenne Katrina per il braccio un uomo l'afferrò ed era già a bordo. Piangeva. Piangeva e voleva tornare a terra, ma nessuno si mosse a compassione. Appena Katrina fu sul ponte, Clara Gulla la circondò col braccio come a sostenerla. «Venite, passiamo dall'altra parte», disse. Troppo tardi. La vecchia Katrina aveva visto un uomo arrivare di corsa giù per la discesa e lo riconobbe subito. «È Jan», disse. «Ah, cosa farà mai adesso?» Jan si fermò all'estremità del pontile. Rimase lì, piccolo e misero. Guardava Clara Gulla sul battello che si allontanava. E nessun volto umano avrebbe potuto esprimere un dolore e una disperazione più profonda della sua in quel momento. Ma a Katrina bastò vederlo per ritrovare la forza di cui aveva bisogno per opporsi alla figlia. «Tu puoi anche partire, se vuoi», disse. «Ma io scendo al prossimo pontile e torno a casa». «Fate come volete, mamma», disse Clara Gulla, non potendone più. Capiva che non c'era niente da fare. Forse sentiva anche lei che erano state troppo crudeli verso il padre. Ma non ebbero il tempo di ripartire. Jan non sopportò di perdere per la seconda volta la gioia di tutta la sua vita. Spiccò un salto dal pontile e si gettò nel lago. Forse aveva l'intenzione di raggiungere a nuoto il vaporetto, o forse aveva semplicemente sentito che non ce la faceva più a vivere. Sul pontile si levarono alte grida, una barca partì immediatamente dalla riva e anche il vaporetto tornò indietro e mise in acqua la sua scialuppa. Ma Jan era già andato a fondo. E non ritornò più in superficie. Il bastone imperiale e il berretto di cuoio verde galleggiavano sull'acqua. Ma l'imperatore era sparito. Così, in silenzio. Che se non fosse stato per quelle insegne, si sarebbe a malapena potuto credere che non c'era più. Trattenuta. La gente trovò davvero straordinario che Clara Gulla di Skrolica dovesse passare giorni e giorni sul pontile di Borg ad attendere qualcuno che non arrivava mai. E non era in luminose giornate d'estate che Clara Gulla stava lì ad aspettare, ma in un novembre fosco e tempestoso, e in un fosco e freddo dicembre. E non vagheggiava sogni meravigliosi di un viaggiatore che veniva da lontano e che sarebbe sbarcato con grande pompa e magnificenza. Non aveva occhi e pensieri che per una barca a remi che perlustrava avanti e indietro il lago davanti al pontile, dragando alla ricerca di un annegato. All'inizio aveva creduto che, appena cominciato il dragaggio, colui che attendeva sarebbe stato subito ritrovato. Ma non era andata così. Per giorni e giorni dei vecchi pescatori lavoravano pazientemente alla draga, ma senza recuperare nulla. Doveva esserci qualche buco profondo sul fondo del lago, proprio in prossimità del pontile di Borg, e molti credevano che Jan si fosse inabissato in uno di quelli. Altri dicevano che c'era una forte corrente vicino al promontorio, che portava fin dietro la grande baia di Kirkirk. Forse era stato trascinato dalla corrente. Clara Gulla fece allungare i cavi di dragaggio, perché potessero arrivare fino alla massima profondità dell'Ovzio, e fece anche dragare palmo palmo la baia di Kirka. Eppure non riuscì a riportare suo padre alla luce del sole. Fin dal primo giorno dopo la disgrazia, Clara Gulla aveva fatto costruire una bara, e quando fu pronta la portò sul pontile, perché potesse accogliere il morto non appena l'avessero trovato. Poi l'aveva sempre tenuta lì, e non aveva assolutamente voluto metterla nel magazzino delle merci. Il magazzino veniva chiuso quando lo spedizioniere se ne andava, e la bara doveva essere sempre a portata di mano, affinché Jan non avesse bisogno di aspettarla. Il vecchio imperatore aveva spesso avuto intorno a sé sul pontile dei buoni amici che gli avevano reso meno lunga l'attesa. Clara Gulla invece era quasi sempre sola. Non rivolgeva la parola a nessuno, e certo la lasciavano volentieri in pace, perché c'era qualcosa di sinistro agli occhi della gente in quella donna che aveva causato la morte di suo padre. A dicembre fu sospesa la navigazione sul lago, e Clara Gulla poté avere il pontile tutto per sé. Nessuno la disturbava. I pescatori che si erano incaricati della ricerca avrebbero ancora potuto sospendere il lavoro, ma solo l'idea la costernava. La sua unica speranza di salvezza era che il padre venisse trovato. Finché il lago non ghiacciava, dovevano continuare. Dovevano cercare intorno al promontorio di Nygard e intorno a quello di Sturvik. Dovevano cercare per tutto l'Ovzio. Ogni giorno che passava cresceva in Clara Gulla la frenesia di trovare il morto. Aveva preso alloggio presso un contadino di Borg e in un primo tempo si concedeva di rimanere a casa almeno qualche ora al giorno, ma a poco fu presa da una tale angoscia che a malapena si accordava un attimo di tregua per dormire e mangiare. Viveva praticamente sul pontile, camminando avanti e indietro, e non soltanto nelle brevi ore di luce del giorno, ma anche nelle lunghe, interminabili sere, finché non arrivava l'ora di coricarsi. I primi due giorni dopo la morte di Jan, la vecchia Katrina era rimasta sul pontile a fianco di Clara Gulla ad aspettare il marito, ma poi era tornata sfrolica. Non era per indifferenza che aveva abbandonato il pontile, ma perché non poteva sopportare di stare insieme alla figlia e di sentirla parlare di Jan. Clara Gulla infatti non nascondeva i suoi sentimenti. Katrina sapeva benissimo che non era per pietosa sollecitudine o per rimorso che Clara Gulla era tanto ansiosa che il corpo del padre riposasse in terra consacrata, ma perché aveva paura. Una paura indomabile finché colui di cui aveva causato la morte continuava a giacere insepolto sul fango del lago. Una volta sotterrato nel camposanto, suo padre non le sarebbe parso più tanto pericoloso. Ma finché Jan si trovava laggiù, provava un terrore indescrivibile all'idea che potesse tornare a esigere la sua punizione. Clara Gulla stava sul pontile di Borg e fissava il lago, sempre agitato e grigio. I suoi sguardi non potevano penetrare sotto la superficie dell'acqua, eppure era convinta di riuscire a vedere l'immenso fondale che si stendeva sotto di lei. Laggiù sedeva l'imperatore di Portugallia. Sedeva su una pietra con le mani intrecciate intorno alle ginocchia e gli occhi fissi nell'acqua verde grigia, in perenne attesa del suo arrivo. Aveva abbandonato ogni ornamento imperiale. Il bastone e il berretto di cuoio non l'avevano seguito negli abissi, e le stelle di cartone si erano certamente dissolte nell'acqua del lago. Sedeva là, nel suo vecchio abito consunto e lustro, a mani vuote. In compenso, non c'era più nulla in lui di finto o di ridicolo. Ora era soltanto potente e temibile. Non a torto aveva affermato di essere imperatore. Così grande era stato il potere che aveva in vita che il nemico da lui odiato era stato battuto e gli amici aiutati. Quel potere gli restava ancora. Non l'aveva abbandonato con la morte. Solo due erano le persone che gli avevano fatto del male. Di uno si era già vendicato. L'altra era lei, sua figlia, che aveva causato prima la sua pazzia e poi la sua morte. Era lei che egli attendeva laggiù negli abissi. Il suo amore per lei non esisteva più. Ora non l'aspettava per renderle lodi e onori. Voleva trascinarla giù, giù nella tenebrosa terra della morte, per punirla di tutto il male che gli aveva fatto. Una cosa tentava Clara Gulla. Avrebbe voluto sollevare il grande e pesante coperchio e calare la bara nel lago, lì, davanti al pontile, come una barca. E poi scendervi lei stessa, staccarsi da terra e sdraiarsi con cautela sul giaciglio di segatura. Non sapeva se affondava subito o se sarebbe andata per un certo tempo alla deriva finché le onde battenti non avessero riempito l'acqua l'imbarcazione facendola colare a picco. Forse non sarebbe affatto affondata, ma soltanto spinta al largo per poi venir gettata a terra su uno dei promontori. Era fortemente attratta da quella prova. Sarebbe rimasta tutto il tempo immobile, senza fare il minimo gesto, senza adoperare né mani né braccia per spingere avanti la bara, ma abbandonandosi completamente in balia del suo giudice. Egli l'avrebbe tratta a sé, o lasciata andare, secondo la sua volontà. Affidandosi in quel modo al suo arbitrio, forse il suo grande amore avrebbe ancora detto una parola. Forse si sarebbe impietosito di lei e l'avrebbe graziata. Ma il suo terrore era troppo grande. Non osava più confidare nell'amore del padre. Non ebbe mai il coraggio di avventurare sul lago la nera cassa. Un vecchio conoscente e amico di Clara Gulla veniva talvolta a trovarla in quei giorni. Si chiamava August e abitava ancora a Darnol di Prasterud, nella casa paterna. Era un uomo sereno e saggio, con quale le faceva bene parlare. Le consigliava di partire e di riprendere il suo lavoro. Non era certo un bene per lei starsene così, su quel pontile solitario ad aspettare un morto. Clara Gulla rispondeva che proprio non osava andarsene prima che suo padre fosse sepolto in terra consacrata, ma questo August non voleva neanche sentirlo dire. La prima volta che le parlò non arrivò a nulla, ma alla seconda visita Clara Gulla gli promise di seguire il suo consiglio. Si separarono d'accordo che il giorno dopo egli sarebbe andato a prenderla col suo cavallo e l'avrebbe condotta alla stazione. Se l'avesse fatto, forse tutto sarebbe andato per il meglio. Ma August è più contento e non potendo andare di persona mandò un garzone col cavallo. Clara Gulla salì ugualmente sul carro e si mise in viaggio. Ma durante il tragitto incominciò a parlare di suo padre con il conducente e lo incoraggiò a raccontarle episodi della sua chiaroveggenza, gli stessi che gli aveva riferito Catrina sul pontile, e altri ancora. Dopo aver ascoltato per un certo tempo, pregò il ragazzo di tornare indietro. Era talmente spaventata che non osava più ripartire. Era troppo il potere del vecchio imperatore di Portugalia. Clara Gulla sapeva perfettamente che i morti senza sepoltura in terra consacrata perseguitano e tormentano i loro nemici. Doveva vedere suo padre fuori dall'acqua. Doveva vederlo disteso nella bara. Doveva far leggere la parola di Dio sulla sua salma, oppure non avrebbe più avuto un istante di pace. Ignazio Oliva ha letto L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, ad alta voce @rai.it.